Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Tu sei un mascalzone. Berlusconi esclude di fare un governo con Silvio Berlusconi nella prossima legislatura? Ma come fa lei oggi a immaginare che noi facciamo un governo con Silvio Berlusconi? Mi deve spiegare come. Beh, lo dicono tutti, come faccio a immaginarlo? Leggo i giornali. Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I feel the consequence? Qual è stato l'ultimo governo a cui Berlusconi ha votato la fiducia? Letta. Bene, quello prima? Monti. Bene. Quello prima? Quante Berlusconi. Volte a me ha votato la fiducia Berlusconi? Zero. Zero. Però c'era quel tipo particolare, non era più in Parlamento. No, vabbè, Forza Italia, via. L'avete dai. Fatto decadere. Ma l'avete Forza Italia, lo prego. Come a Ronne Piperno dice, ma ti dai un po'. Dai, forza. Vitana, scusi, racconti la verità. Perché se portiamo il PD al 40%, governiamo da soli. Ce la facciamo? Non e ce la facciamo? E chi sarebbe il premier lei? Vediamo chi se vince le elezioni. Se prende il 40% è lei. Vediamo chi vince le elezioni. Io non sono ossessionato dall'idea di tornare a Palazzo Chigi. Allora, siccome ci siamo un po' presi a male parole, cioè, con l'amore, sì. Amore omnia vincit. Amor omnia vincit. Signori, la frase più epocale è: io non sono ossessionato da tornare a Palazzo Chigi. Dall'idea di tornare a Palazzo Chigi. Quella è la frase clou. And I touched your face. Credo sia la frase clou. Io non sono ossessionato dall'idea di tornare a Palazzo Chigi. Cocco Ben. A chi? A chi? Vabbè che si avvicina l'estate, le spiagge, ma Cocco Bello a chi? Amico mio, Vincenzino. Oh. Bestialità. Quali? Non lo so. Ah, il libro di Renzi. Signori, la ricostruzione su Letta. Non sono stato io, ma è stata la minoranza del PD, soprattutto Speranza, che mi chiedeva un cambio di passo. D'altronde Letta non ha fatto nulla in un anno. Questa è la sintesi. Beh, io ricordo che lo chiamavamo un po' Enrico Slitta, eh? Cioè, perché tutti i provvedimenti slittavano. Enrico Slitta. Ma tutti quelli che dicono, però tu hai fatto un golpe di palazzo, ne è andata così. E voi lo sapete perché ce l'avate. È stata un'operazione che potete chiamare golpe di palazzo quanto si vuole, noi le diamo un nome diverso, democrazia interna. E abituarsi a praticare la democrazia non fa male alla salute. Anzi, essendo fatto peraltro in streaming, è a vostra disposizione il verbale di quella riunione. Come risponde Letta? Disgustato. Pare che dica ai suoi collaboratori: è ormai un caso psicanalitico, stile Freud. E vabbè, questo è il clima, signori, è il clima. Renzi poi ha attaccato anche Banca Italia dicendo: dovevamo fare un po' da soli, ci siamo fidati di Banca Italia sulla vicenda Banca Etruria, altro che... Oh, signori! Qui vogliamo ricordare intanto che che a Cracovia ci sono 14 gradi, pioggia e vento, ci fa sapere in diretta un ascoltatore da Cracovia. Questo è il clima a Cracovia. Mentre a Savona, sereno, 23 gradi. E qui voglio vedere come te la cavi, Peter Bescapè. Beh, signori, a Siena 22 gradi, ce lo fa sapere Mario, anni 82, tifosissimo del Milan da 75. 1899. Questo è l'inno del Milan, Mario, è un po' aggressive, forse per te 82enne. Un abbraccione, Mario, fratello. Rossoneri guerrieri, anche all'estero sentono i cori, è una realtà partita da qua, la città della Madonnina, innamorato pazzo di lei, nella testa c'ho solo l'Ina. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Beh, voglio salutare l'onorevole Maurizio Bianconi, il nostro onorevole Maurizio Bianconi, direzione buongiorno. Italia, buongiorno, bello, mica quello dell'inno dell'Arezzo che hai fatto scrivere a Pupo. Questo è bello davvero. Questo è bello davvero. Senti com'è giovanile, bello. Come pompa. Vado allo stadio, canto per 90 minuti. Anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti. Tutto per il magico Milan. Non mi importa quando e dove. Vincere è quello di cui ho bisogno. Tifo la squadra migliore del mondo. Vabbè. E non la cambio nemmeno per sogno. Vabbè. Ma ha cambiato l'inno? Ma è vero che ha cambiato l'inno? Han cambiato? L'inno? L'inno, certo, questo era prima, era Milan! Milan, esatto, era molto solo con te. Oh. Era quello lì. Esatto. Quello. Adesso l'hanno cambiato. Era molto berlusconiano, effettivamente. Questo sì, è quello sì. Dell'Arezzo, signori, non siamo impazziti qua in un clima da jukebox totale. Forse la gente che si è svegliata alle 6:30 le abbiamo fatto venire una grande emicrania già. Va bene. Allora, insieme a Maurizio Bianconi c'è la nostra Aurorina, ecco, altra musica. Ragazzi, oggi è un jukebox impazzito. Aurorina Lussana. Buongiorno, che anche lei sta ascoltando qualcosa. Fermiamoci, cosa stai ascoltando tu? Cosa vuoi che ascolti con quello che è successo a Cantù? No, infatti, e adesso ci devi raccontare, cosa stai ascoltando? L'assedio di Corinto. L'assedio di Corinto. Sì, caro Maurizio Bianconi, c'è un colpo di stato a Cantù. Dove hanno appena eletto l'Edgardo Arosio, come bravissimo. Lo chiama lei, l'Edgardo Arosio, Lega, siamo in una zona di Lega dura e pura, Bianconi. C'è stato un colpo di Stato, vediamo se ho capito bene, apriamo il Parlamento. Cioè. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, in estrema sintesi l'ho capita così, caro Bianconi, hanno denunciato che il fratello del sindaco ha un appalto con il comune, è vero? È questo almeno, sì, questa è l'accusa? Concesso precedentemente. E quindi questo aspetta. E quindi questo, secondo Bianconi, secondo l'opposizione, è motivo per far decadere il sindaco appena eletto. Beh. Neanche secondo l'opposizione, secondo il testo unico. Ah, quindi decade. Questo è incompatibile. È incompatibile? Sì. Quindi era decade. Era perfettamente eleggibile. Sì, diciamo che gli eccellenti burocrati del comune di Cantù, in piena campagna elettorale, 10 giorni dal voto, hanno concesso al fratello del candidato sindaco della Lega, che poi di lì a 10 giorni sarebbe diventato sindaco, un appalto da sotramorte, come si chiama, delle pompe funebri, e un legittimo appalto ovviamente al fratello, o meglio alla cognata, che sembra quei film degli anni 70, il cognato. Ma il tono è già funebre, cioè, ma mi stai dicendo che non c'è appiglio, cioè che cadrà? No, guarda, allora qui bisogna difendere la democrazia, siamo sotto assedio. Adesso lascia stare, prima vediamo, dici cosa succederà. Uno come Unida, che non è l'ultimo arrivato, ha detto che è una legge incostituzionale. Sì, vabbè, ho capito, però la legge c'è, ma tu rimuovi un impedimento che è ovviamente un impedimento che puoi rimuovere te, non che non è nella tua disponibilità, ma nella disponibilità di terzi. Vabbè. Cioè non è che, ecco, vabbè, allora, il dato di fatto è che decadrà. Comune, questo del comune, no, l'ha detto, lui era perfettamente eleggibile. Una volta che l'hanno eletto, gli hanno detto: ah, guardi, noi 10 giorni prima che lei venisse eletto abbiamo dato una patto a suo fratello, e quindi lei decade. Sì, che anche lui, però, dai, che ingenuone. Capito, ah, ma ho capito, ma che ingenuo, ma cosa ne sai? Ma, cioè, ma voglio dire, ma informati. È stato del testo unico che lo rende incompatibile. Incompatibile. Sai che in Italia tu scopri le cose ex post. Sì, tu sei sì, perfettamente leggibile una volta che t'hanno eletto. Vabbè, no, Bianconi, guardi. Quindi avvocato Bianconi, si può fare qualcosa per difendere l'Edgardo, no, Arosio o no? No, no. No, fuori dai coglioni, questo è. Sì, sì, a meno che non fosse una sanatoria successiva rinunciando alla è della cognata, non è la cognata dice oh, io devo lavorare, eh. La cognata deve lavorare, vabbè insomma secondo allora Rossana, che esultava, no, c'è già un caso politico a Cantù, siamo vabbè. In un'era di grandi tribolazioni, ma un faro illumina nel nostro campo, vabbè, nostro tienici informate, sì, tienici informate, i pagani, i barbari, tienici informata. Vorrei capire da Maurizio Bianconi un giudizio su Renzi. Attenzione Maurizio, ecco. Attenzione, perché già tu spari a zero. Che ti sembra? È molto livoroso ultimamente? Secondo me si è disunito molto, perché ha avuto dei colpi, quindi la verità è che lui è andato a Palazzo Chigi convinto di poter replicare lo schema di Firenze, cioè come faccio il sindaco faccio il primo ministro. Come quando Berlusconi diceva: come guido un'azienda, guido l'Italia. Esatto. E si è accorto che questo non ha funzionato, non funziona. E quindi è diventato, come posso dire, molto più insicuro da un punto di vista sostanziale. E quindi attacca. Quindi attacca. E quindi si sente il terreno scivoloso sotto i piedi e attacca come un matto e non è più, diciamo così, neanche piacevole, perché una volta era anche così un po' cazzaro, divertiva anche, ma non diverte neanche più. Ecco, un po' cazzaro. No, ma è vero, insomma, lui, io quando fece la prima fiducia, gli lessi un pezzo del suo libro, siamo in tema di libri, in cui diceva che mai e poi mai avrebbe fatto il presidente del consiglio fregando Letta, anzi per l'Italia che amava sarebbe stato con Letta sempre, per la vita e per la morte. E quando glielo dicevo che praticamente in un paese normale uno che è preso con le mani nel sacco in quel modo, l'aveva scritto 40 giorni prima, uno si dimette, lui rideva e faceva bene a ridere, perché se l'Italia lo consente lo poteva fare. Vabbè, insomma, lo vedi disunito. Non lo vedo più disinvolto come prima, no. Disunito perché ha paura, gli sta scivolando. Tu Aurora, non gli risponde più ai fondamentali ai quali è abituato, quindi la colpa è sempre degli altri, e della Banca d'Italia, e della sinistra del PD, e delle... Vabbè, lo vedi un po' che meno affendenti. Tu Aurora come lo vedi? Se ti riprendi questa storia di Cantù, adesso. Ma Miranda, conta che te lo sto dicendo, che sono problemi umani prima ancora che politici. Umani, addirittura Letta dice psicologici. L'è stupata, cioè è scoppiato. Lui da quando si è ritrovato lì nella tavernetta a casa senza l'aereo che lo portava in giro per il mondo, senza conduttore. Ma vabbè, adesso è segretario del PD e... È segretario del PD e... Ma siamo in tempi dove abbiamo bisogno di persone che hanno un carisma, abbiamo bisogno di un Marco D'Aviano, che di gente che ci ferma l'invasione, ci servono gli ustarialati di Polonia. Mamma mia, noi siamo qui a parlare delle allora paesi, tu starai con quelli della nave di estrema destra, non so neanche com'è l'organizzazione, che lunedì, attenzione, da lunedì ci sarà una nave organizzata da un'organizzazione di estrema destra europea che si metterà lì per respingere i migranti ostacolando le ONG. Secondo te questa è la soluzione, cioè mettersi lì a fare la battaglia navale come A4 3B2, solo che qui ci sono in ballo vite umane. Allora sai cosa fai? Fai come i tuoi amici di Capalbio, che hanno fatto la nave della tolleranza, no? lì questo monumento al dramma dell'immigrazione, però quando li dovevano portare più da loro a Capalbio, sono amici miei, non ho mai messo piede a Capalbio in vita mia, comunque non hai ragione, non ho mai messo piede a Capalbio, non ho mai offeso però, perché quella è l'ipocrisia, capito? Vabbè, Bianconi, che dobbiamo fare? Cosa facciamo? Ci mettiamo a bordo della nave di estrema destra che andrà a fare battaglia navale lì da lunedì? Ma non per scherzo, ma per sul serio. Proprio no, bisogna fare cose vere, però vedo che anche Minniti non le fa, insomma. Io l'ho scritto più volte quello che farei se fossi io il ministro degli interni. Tipo? Insomma. Una cosa? No, è molto semplice, copierei gli altri, perché la Spagna ha avuto 6.000 sbarchi l'anno scorso e noi 282.000. Ma noi l'abbiamo accettato, cioè ormai questo è chiaro. Venite, c'è posto per tutti. Bianconi, se stai sulla casa scrivi è aperto, venite, mangiate, dormite, pisciate dove volete vabbè, e apri la casa al mondo. Poi non ti lamentare se in casa tua... Questi sono i numeri. E il Marocco, fra il Marocco e la Spagna si va a nuoto. Dalla Libia qua è un problema, e loro cosa hanno fatto? Pagano profumatamente il Marocco perché li tuteli dagli sbarchi. Siccome noi abbiamo davanti la Libia, che è inutile pagare, bisognerebbe andare anche noi a pagare il Marocco. L'hanno raccontato tutti, cioè la Spagna paga il Marocco, paga la polizia marocchina, non è che li paga di nascosto, cioè sono accordi legali, li pagano, li sovvenzionano, però il Marocco è un paese, come dire, dove c'è un controllo. Marocco c'ha polizia, esercito, marina, anche l'Algeria per altri. Noi abbiamo la Libia, che dobbiamo fare? Ma noi abbiamo la Libia, ma non è il destino sinicevago che ci ha messo davanti la Libia. Voglio dire, ci sta la Libia e si piglia l'Algeria e il Marocco, si pagano l'Algeria e il Marocco profumatamente, gli si mettono fuori dalle acque territoriali libiche e si fa il fronte con loro. Le nostre navi rientrano dentro le nostre acque territoriali e impediscono gli sbarchi. Cioè, dovremmo chiedere alla Marina del Marocco e dell'Algeria di mettersi appena fuori le navi, le acque territoriali libiche. Ma scoppia una guerra, cioè la Libia scoppia una guerra con l'Algeria. Ma guerra che la Libia non è niente. Che in tre giorni finisce questa storia. Se si sa che non ci si viene, smettono. Questo è il punto. Vabbè. A quel punto lì, siccome la pentola non può bollire, il resto dell'Europa, se non scoppia la pentola, si renderà conto che non siamo disponibili a pagare accettato. Il conto per tutto. Vabbè, andiamo un attimo al traffico, perché poi dobbiamo chiedere a Bianconi, direzione Italia, che ha combinato Massimo Corsaro, onorevole anche lui di direzione Italia, che ha combinato. Vabbè, adesso lo scopriremo tra qualche secondo che ha combinato. Ha detto una frase, ma dire infelice è poco nei confronti di Nedo Fiano. Tra poco... Mina e Dennis sul posto del traffico. E basta, comunisti, fascisti, come all'asilo, fiocco rosso, fiocco blu, tanto qua la gente è senza lavoro, immigrati e tutto il resto, e va bene, sì, dai, sì, tacca banda, vai. Sì, ma avete rotto i coglioni, antifascismo, anticomunismo. Ma cosa stiamo dicendo? Madonna Rumma, si vaccina? Cioè, ormai tra vaccino e Donnarumma due coglioni, ragazzi. E una battuta, se volete volgare, volete processarmi di volgarità, mi denuncio come colpevole. Ma se volete attribuirmi delle parole che non sono nel testo del mio tweet, è evidente che sono oggetto di una speculazione politica un po' meschina. Corsaro, direzione Italia, il tuo partito, Maurizio, ma che ha scritto? Che ha scritto su Twitter? Soprattutto mio amico. Sì, certo, amico. Che poi le sopracciglia, ha scritto così, di Nedo Fiano, le porta così per coprire i segni della circoncisione. Poteva dire, se proprio lo pensava, Fiano è una testa di... No? Punto. Cioè che è una grande volgarità, però... Mette il preservativo invece che il cappello. Poteva usare altre... Cioè, questa gliel'avevi suggerita tu. Oh, questo io lo dico spesso, quindi. No, capito, però cioè adesso rido perché sul preservativo e il cappello. Ma questo è grave, cioè voglio dire, ma come si fa a ignorare la storia di Nedo Fiano, che ha un papà sopravvissuto ad Auschwitz, sterminata tutta la famiglia, e tu vai a toccarlo sul suo essere ebreo? No, no, è una cosa che non si poteva non fare, anzi si doveva non fare. Però io che sono un pezzo ebreo, quindi sono anch'io un po' offeso su questa cosa. Non lo sapevo. Appunto, capisco la leggerezza stolta talvolta che ha usato. E che l'hai detto? Massimo, non si è neanche scusato? Aggredirlo in questo modo, addirittura con un corsivo di Battista nel Corriere della Sera, mi sembra francamente eccessivo. È come posso dire, come se un regime totalmente colpevole di tutto si attacchi a una cosa per cercare di scaricarsi di ben altro. No, però dai, cioè non si può. Però come poteva dire. Cioè, no, se ne deve andare dal Parlamento. Dal Parlamento se dovrebbe andare tanta di quella gente che Gesù lo sa, ma non Corsaro. Non Corsaro. Che ha fatto una cosa, ha chiesto scusami. Dice la scusa è peggio della verità. Ma perché la scusa? Ma cioè, poteva dire ho fatto una cazzata, chiedo scusa. Sì, cioè, perché sì. c'è oggi questa mania, non so. Aurora, tu chiedi scusa, tu vai in giro, non so, pesti il piede a un nigeriano che ti vuol vendere la collanina e dici scusa, no? Ti dici scusa. No, perché il nigeriano non gli pesti il piede. In generale non per i piedi a nessuno. Per sbaglio. Sì, no, per sbaglio. No, nella vita faccio una cosa perché ci credo, la porto fino in fondo, allora vado avanti. Sì, ma questo no, non la faccio. Ma questo non è crederci, cioè a parte cioè allora o vai avanti con gli insulti, con la definizione, cioè, se no sì, è sempre un po' una roba un po' una volgarità. Dai, è brutta questa, è brutta questa. Ma sì, ma cosa? Non vorrei che ci fosse soltanto anche un'invidia penis. No. E no, però sai quando poi rimandi alla circoncisione quella roba lì. No, voglio dire, non vorrei che fosse anche un'attrazione verso chi. Credo di no. Per pensare a una roba così perversa, che magari c'è un'attrazione. Comunque. Ma come, quindi, capitolo chiuso per voi, Bianconi? Per voi non lo so, perché Fitto è il presidente mio, penso di sì, però lui ha sbagliato parecchio, non è che ha sbagliato poco, però appunto. Ha sbagliato, basta. Siccome io lo conosco bene, dire che è razzista, cioè non è vero, io lo conosco bene, so che non è assolutamente vero, so che gli sta sui coglioni Fiano, scrivi Fiano, mi stai sui coglioni. Questo è un diciamo così, un'inimicizia politica che va avanti da molto, perché erano consiglieri regionali insieme, capito? Allora facciamo una cosa, voglio far chiudere con la solita votazione da 0 a 10. Avete le palette pronte? Conoscete Nicola Morra? Tu Bianconi magari non lo... Sì, vabbè, è al Senato, è nel Movimento 5 Stelle. È il senatore del Movimento 5 Stelle. Sì, che ha fatto l'errore anche lui, incontrando Dejan Cednikovic di Radio Rock, di voler cantare. Ha fatto questo errore. E canta i Clash, Shuda Estedo Shuda Go, senti Morra. You're happy when I'm kissed. Che one day it's fine and next it's black. Che ho capito il ritmo, Morra. So if you want me off your back, well come on, don't let me know. Come violentare should i Clash. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Nicola Morra. Should I say Rockabilly? Ma Nicola Morra! Come insisti? Sì. Non si ferma! Ma perché? Ma Bianconi, ma se vengono da te quelli di Radio Rock, tu che gli dici? No, io non canto, è la cosa che faccio peggio al mondo. Esatto, e quindi voto a Morra? Zero, neanche uno, zero. Aurora, tu vuoi dargli un voto? No. Credeva, no, bravo, 7-8, no, dai, no, vabbè, io non so cantare, allora vabbè dai, vi lascio con i veri Clash e vi abbraccio. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black.